9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no, tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, tu no, vengo anch'io, no, tu no, vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no? Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 31 di agosto, se il Signore vuole, agosto e quindi le vacanze in generale finiscono con questa giornata. Qui a Milano da ieri il tempo è diventato decisamente autunnale, insomma tutto è svolta, tranne che però la condizione dell'Italia sui mercati internazionali e la condizione dei mercati internazionali stessa non è svolta per niente, a dire la verità. E per questo noi cominciamo con le solite due canzoni, quella This the End, che ci sarà fino a che non, come qualcuno continua a chiedere, c'è una soglia di spread sotto la quale la levo, perché come vedete noi siamo tornati anche verso 420 di spread, poi si va di nuovo a 450, 460, un mese fa eravamo oltre quota 500. Il problema è il nodo strutturale che ha determinato l'eurocrisi e l'aprirsi delle forbici del rischio sovrano. Fino a che quel problema è aperto, siccome noi abbiamo un guaio nostro, che è il debito pubblico, che non si deve all'euro, non si deve alla globalizzazione, quel meccanismo di scarsa credibilità italiana resta e noi rimaniamo un paese affetto da contagio, portatore di contagio, e questo, anche se la politica poi si dedica ad altro, resta, e il tema quindi diventa vengo anch'io, no tu no, cioè chi fa parte dell'euro e a quali condizioni. Quindi lo devo come risposta agli ascoltatori. Oggi ci occupiamo, proprio a conferma del fatto che l'atmosfera purtroppo è gravida di interrogativi molto pesanti, di due storie un po' paradigmatiche, si direbbe, cioè due storie simbolo dei problemi pubblici e dei problemi privati, che insieme, intrecciandosi, fanno di questo paese un posto da cui chi può allontana i figli oramai, un posto da cui molti imprenditori, se possono e si sono internazionalizzati, meditano di ridurre sempre più significativamente la propria presenza. Un posto in cui il reddito disponibile quest'anno ha una diminuzione in termini reali paragonabile solo quella a dell'immediato dopoguerra, anzi degli anni di guerra, perché nel secondo dopoguerra ci fu la ripresa. Non voglio esagerare. Mentre la politica si fa prendere la mano dalle polemiche sul capo dello Stato, se Napolitano sia o meno ricattabile, per questa storia delle intercettazioni non pubblicate, quindi io ve l'ho già detto, io ho aderito all'appello del fatto, continuo a non cambiare idea, nel merito non vedo nessuna violazione di legge, ma la questione è diventata, c'erano anche colloqui del Quirinale con la Procura di Palermo anni prima per le vicende della trattativa Stato, mafia, eccetera, eccetera. Ora Panorama ha pubblicato ciò che alcuni che hanno ascoltato quelle intercettazioni non pubblicate avrebbero detto su ciò che poi il capo dello Stato ha veramente detto. Su questo un enorme polverone è la reazione del Quirinale di ieri sul fatto che ci sarebbe un ricatto in corso, ma il Quirinale non sarebbe ricattabile. Questi contenuti ascoltati di intercettazioni non pubblicate sarebbero comunque una gravissima violazione della tutela del Quirinale, e comunque il capo dello Stato mai e poi mai avrebbe detto quello che Panorama avrebbe scritto. Io francamente ritengo, senza voler apparire irrispettoso del capo dello Stato, che tutta questa vicenda sia un classico polverone italiano, proprio un esemplare polverone italiano di come ci si possa avvitare più che sul merito di quello che è stato detto o non detto, prima da Mancino, consigliere del Quirinale, poi al capo dello Stato, ci si avvita unicamente sul fatto, su due questioni. Primo, vale per Napolitano ciò che è valso per Fassino, D'Alema e Berlusconi? Evidentemente no, questa è l'opinione del Quirinale e di tanti altri, o meglio, di alcuni altri che avevano sostenuto posizioni analoghe su Berlusconi in passato, dicono: siccome ci avete lasciato da solo, adesso io difendo il Quirinale, così passa una legge a modifica delle intercettazioni, eccetera, eccetera, eccetera. La seconda questione è, poiché è stato il Quirinale il garante della soluzione Monti, adesso vuole accelerare per le elezioni e poi magari rimanere in carica con le elezioni anticipate apposta per sorvegliare sul fatto che uno schema di vigilanza imposto all'Italia con quello del governo dei tecnici vada avanti, difendiamolo, così difendiamo questo stesso schema politico. A me pare che entrambi i ragionamenti siano impropri. Io nel merito mi sono abituato in 20 anni di Seconda Repubblica a capire che i contrasti sulla giustizia, a parte che di solito nascondono scontri politici tra schieramenti, in questo caso non è nemmeno così. Sono intorno a una formula straordinaria oppure meno, ma di solito non vanno mai alla soluzione del punto. Tant'è vero che non abbiamo mai cambiato l'ordinamento, la disciplina delle intercettazioni, eccetera, eccetera. Servono a fare molta fuffa e io sono sicuro che anche questa volta, magari sbaglio, la maggioranza degli italiani, anche degli ascoltatori e così via, di fronte al tono, al rilievo che ha nei media, in televisione, sui giornali, la vicenda intorno alle intercettazioni, a ciò che ci sarebbe stato detto o non detto, se ci sia stata una violazione delle prerogative del Quirinale o meno, a tutto questo gli italiani si grattano la testa e dicono: ma sono matti questi qua, oppure non si rendono conto che la sostanza di ciò che ci impatta nella vita quotidiana è altro? Ecco, io non voglio fare il qualunquista, è solo un invito a tenere conto del fatto che gli umori, le opinioni, le condizioni reali degli italiani, dell'economia italiana, con vicende come l'ILVA, Sulcis, Alcoa, sono oltre 140 le grandi crisi cui i tavoli sono aperti, con quasi 500.000 dipendenti, quando già abbiamo perso più di 1 milione di posti di lavoro negli anni di crisi. Ecco, tutto questo mi sembra che dovrebbe invitare dal Colle a tutti i magistrati, a tutti i politici, anche i direttori dei giornali, a capire che forse non sono queste le vicende prioritarie. Ma per carità, può essere, come al solito, che mi sbagli. E quando mi sbaglio c'è sempre poi qualcuno che mi sfascia la macchina al garage e mi fa tornare, come ieri, alla più moderata considerazione dei miei argomenti. Allora, le vicende di oggi di cui ci occupiamo, quelle paradigmatiche, una a nord e una a sud, una che parla di una sconfitta pubblica molto grave e una che parla di una sconfitta privata altrettanto grave. In questa prima parte della trasmissione ci occupiamo della vicenda di Alessandria, che è il primo capoluogo di provincia, io sono piemontese e questo mi addolora, che è fallito a tutti gli effetti, e tenteremo di capire che cosa questo voglia dire per l'amministrazione cittadina, per i suoi dipendenti, per le società controllate, per i cittadini di Alessandria, per quello che pagano e pagheranno sui servizi, sempre che i servizi siano in condizione, quelli pubblici loro offerti, di essere mantenuti a livello di standard, sicuramente non di prezzo, i prezzi saliranno, a cui erano abituati, e qual è il passaggio successivo nel tempo attraverso il quale questa soluzione verrà sanata. E questa è la prima vicenda, quella pubblica, che ci ricorda di tutto quello che dobbiamo fare per tirarci sulle maniche e uscire da questo problema del debito, che è un debito pubblico nazionale. C'è anche però il caso dei debiti locali, è un debito che si può affrontare senza credere di dover pescare troppo nelle tasche degli italiani con la patrimoniale. Questa è la mia opinione. Ciò che manca in questi anni è proprio aver capito che il debito pubblico si affronta con la cessione di attivi pubblici a livello centrale. La seconda storia, lo vedrete, sarà una storia privata, quella del porto di Gioia Tauro. È un porto che nasce da una scommessa, che dal fallimento di un polo siderurgico pubblico, ancora un altro come quello di Taranto. Poteva esserci un grande porto di transshipment, cioè sul modello per cui si reinstradano i TEU, i grandi contenitori standard che dagli anni 60 sono la modalità attraverso cui funziona il commercio marittimo. Un porto poi entrato in crisi per le condizioni che su questo modello di transshipment viene offerto da porti mediterranei a costi molto più bassi, di efficienza molto più alti, che poi firma l'armatore, propone e fa firmare ai sindacati, contrattandolo con loro, un accordo per abbattere l'assenteismo che era tradizionalmente fortissimo a Gioia Tauro, e adesso che c'è l'accordo confermato dai sindacati si va a votare. Un sindacato locale dice no, questo accordo con antiassenteismo non ci piace, o meglio non dice questo ma l'effetto è questo, e al voto quell'accordo non passa. Ecco, ho messo insieme queste due storie apposta per riflettere tutti insieme su quanto resta da fare perché questo paese si rimetta in piedi con la dignità, l'orgoglio e la forza di ciò che milioni di italiani tutti i giorni si sforzano di convogliare in quello che fanno e in quello che soffrono nelle loro vite, perché non continuiamo a essere gravati da più disoccupazione, minor crescita e tagli ai redditi. Cominciamo da Alessandra. Io ringrazio il sindaco innanzitutto di Alessandra, che da pochi mesi è alla guida di un'amministrazione. È ovvio che il dissesto non lo ha determinato l'amministrazione guidata dal sindaco attuale. Il sindaco si chiama Maria Rita Rossa, è un sindaco del PD. Io intanto la saluto e la ringrazio di essere con noi. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Certo, non deve essere piacevole per lei girare questo agosto di fronte agli alessandrini che immagino le chiedano conto. Posso, io ricordo solo qualche numero, mi corregga se sbaglio, lo prendo proprio dalla stampa, dal quotidiano torinese, per spiegare in pochi numeri a chi non conosce la realtà pubblica di Alessandria del Comune. Stiamo parlando di 535 dipendenti, lavoratori delle tre società partecipate dal Comune di Alessandria, cioè quella dei trasporti, dei rifiuti e dei tributi, di 100 milioni di debiti accumulati più o meno dal comune di Alessandria, anche se si aspettano i tre commissari in arrivo nel fine settimana che dovranno accertare e fare il punto su questo debito accumulati, e 5 anni di fronte adesso di tempo nel quale il comune di Alessandria dovrà recuperare tutto il recuperabile, cioè fare che cosa per uscire da questa condizione poco piacevole, signor sindaco? Naturalmente i commissari, come dice la legge, si occuperanno della massa passiva, quindi dovranno contabilizzarla, dovranno verificarla, e poi comincerà tutto il processo di insinuazione da parte dei creditori, e quindi questo sarà un'attività che riguarderà l'organismo straordinario di liquidazione. Però la vera sfida, che anche la partita nella quale questa legge stiamo registrando ha probabilmente qualche elemento da modificare, è la capacità di costruire un bilancio strutturalmente riequilibrato che dovremmo presentare entro 3 mesi, il che vuol dire che dobbiamo contabilizzare le entrate, a tante entrate certe, quindi non diciamo gonfiate per far pareggiare il bilancio, dovranno corrispondere le uscite, che vuol dire che la spesa, diciamo, corrente, la spesa del comune oggi si attesta intorno ai 105-109 milioni, naturalmente avendo già tagliato tutto ciò che era possibile tagliare, e le entrate non supereranno gli 89 milioni. Questo vuol dire che bisognerà porre mano a un taglio di 20 milioni di euro, e qui è la sfida, cioè come questa operazione potrà essere fatta. E cioè cercando di raccogliere l'idea del ridisegno dei servizi pubblici locali, anche alla luce della sfida che può esserci tra un modello di gestione di alcuni servizi tra il pubblico e il privato, l'idea che l'approccio anche della privatizzazione non debba essere, come dire, uno scoglio ideologico sul quale poi consumare le possibilità di migliorare i servizi, e anche una riorganizzazione della macchina pubblica che la renda più efficace ed efficiente. Quello che io chiedo sono non la rinuncia alle verifiche, ai controlli, alla rendicontazione fino all'ultimo centesimo delle spese che facciamo, ma anzi io chiedo di poter avere un tavolo tecnico che tutte queste cose le possa verificare. Chiedo un'elasticità diversa sui tempi per poter fare un lavoro che sia credibile rispetto al risanamento. Ecco. È chiaro che una città il cui comune ha più di 100 milioni di euro di buco di bilancio, perché i debiti alle volte possono rappresentare qualcosa di positivo quando sono frutto di investimenti e quindi quando lasciano infrastrutture, opere, miglioramenti per la città. In questo caso siamo di fronte ad una situazione in cui lo scempio della finanza pubblica ha provocato il dissesto ma anche il disastro della città. E su quindi... un bilancio che in termini di spesa, l'ultimo bilancio di che ordine di grandezza era annuale del comune di Alessandria? L'ultimo bilancio era ben oltre le cifre che ho detto, ma il problema è che il bilancio era totalmente falso, perché la Corte dei Conti ha evidenziato un lungo elenco di atti illegittimi, non ultimo, insomma, l'ultima delibera della Giunta, in cui solo l'ultima delibera ha riconosciuto 26 milioni di euro di debiti fuori bilancio. Quindi in realtà la fatica che noi stiamo facendo è ricostruire dati certi di bilancio. Sono stati polverizzati tutti i centri di costo sui quali negli anni 90 si era cercato di costruire un bilancio più trasparente, e nel tempo si sono persi, ma in questi ultimi anni sono stati decisamente polverizzati. Qui c'è stata un'occupazione proprietaria della cosa pubblica fino a così ad assistere a cose incredibili, cioè mentre il comune già era in fase di profonda difficoltà con crisi di liquidità nei confronti delle controllate, si facevano spese assurde, folli, a tal punto da utilizzare una di queste per comprare un tartufo da 12.000 euro. Sì. Senta. Ecco, però il tema è anche un altro, cioè capire come introduciamo anche nuovi modelli di sviluppo, perché quello che non può determinarsi è che il risanamento alla fine porti i conti ad una realtà virtuosa, ma faccia morire la città. Per cui io penso che non possano esserci politiche di due tempi, cioè mettiamo in piedi il risanamento, curiamoci del dissesto con tutti i vincoli di legge, no? Che questo comporta, e poi ci occuperemo dello sviluppo. Se queste due cose non avvengono insieme e non avvengono sul perno della riorganizzazione della macchina pubblica e della sfida della possibilità del rapporto tra pubblico e privato nella gestione di alcuni asset che sono strategici ma che ridisegnano il profilo dei servizi pubblici locali, noi non avremmo fatto un passo avanti. Senta, secondo il nostro ordinamento i responsabili di questa strage di credibilità, purtroppo, di Alessandria, certo, e dei suoi conti pubblici, insomma, sì, aspetteranno l'azione sul danno erariale. Le chiedo, non bisogna innanzitutto potenziare anche le sanzioni pubbliche e private su chi porta la responsabilità di aver votato, stilato innanzitutto, proposto, redatto, ma anche votato quei bilanci, certo, falsi? Certo, io sono convinta, una delle, diciamo, dei rilievi che in questi giorni io mi sento rappresentare dalla città è proprio questo, ma i responsabili di tutto questo disastro sono ancora in consiglio comunale, esprimono solidarietà i lavoratori delle partecipate. Una delle nostre partecipate è stata interessata da una cessione del credito presso un istituto bancario, il quale ha anticipato 10 milioni di euro che tra l'altro non si sa neanche, stiamo ricostruendo dove possono essere finiti, e il comune non ha mai onorato quelle rate, e oggi io non posso erogare diciamo le risorse necessarie a pagare le fatture del contratto di servizio, perché altrimenti se questa partecipata avesse i conti in nero sarebbero assorbiti immediatamente dalla banca. Quindi, certo, bloccati, ecco, dalla banca. Esattamente questo è il tema, cioè la legge è molto chiara, diciamo, sulla gestione del dissesto, sul controllo, anzi io credo che l'esperienza di Alessandria possa servire, ed è per questo che ho chiesto alla Presidenza del Consiglio un tavolo tecnico, perché ad esempio la rigidità di approvazione della manovra sulle tariffe a un mese dalla dichiarazione del dissesto non è in asse con la presentazione del bilancio strutturalmente riequilibrato, e anche la rideterminazione delle tariffe è fatta su dati di bilancio che erano, diciamo, drogati, e quindi potrebbe non corrispondere esattamente alle esigenze. Quindi in altre parole significa i cittadini cominciano a pagare già, esatto, parecchio di più prima ancora che ci sia il quadro economico, esatto, preciso, quindi, di riferimento. Secondo me questa parte della legge va rivista, i tempi vanno resi più coerenti, e poi c'è il tema che ha introdotto lei, cioè il tema delle responsabilità, perché c'è una richiesta di danno erariale, un processo che penale, in sede penale, che è iniziato, ma non è chiara tutta diciamo la partita nei confronti di chi ha responsabilità. Noi ci siamo insediati a maggio, abbiamo ereditato questa situazione, naturalmente noi siamo gli interlocutori dei disagi della città e per un po' di tempo, non per scaricare solo le responsabilità, ma per fare chiarezza, continuiamo a dire di chi sono le vere responsabilità, ma questo non basterà, non basta anche alla richiesta dei cittadini che chiedono, ma noi siamo pronti ai sacrifici, le tariffe sono già operative. I lavoratori delle partecipate ci hanno dato una lezione in questi giorni perché poiché la crisi di liquidità ha portato ad una mancanza di accreditamento degli stipendi al 27, è iniziata una lunga trattativa con l'Istituto di Credito Locale presso cui abbiamo la tesoreria e presso cui il Comune e le partecipate sono incagliate. Quindi tutte le linee di credito le banche le hanno chiuse e a questo punto io ho iniziato un braccio di ferro in prefettura chiedendo lo sblocco dei fondi vincolati all'organismo straordinario di liquidazione, perché naturalmente io i residui attivi del 2011 li ho vincolati all'organismo, così come dice la legge. Poi, senta, ma in questa circostanza mi faccia capire, ho due domande secche. La prima è relativa al fatto, quando un comune si trova in una condizione come Alessandria, potrebbe essere appunto un'esperienza pilota perché magari molti altri potrebbero seguirlo, non sarebbe il caso di poter contare su una gestione straordinaria sotto stretto controllo delle procedure stabilite dalla legge della tesoreria, ma con una gestione straordinaria e con un'apertura straordinaria per l'ABC della quotidiana sopravvivenza e il pagamento fino a che non si definiscono le piante organiche da parte di Cassa Depositi e Prestiti, secondo lei? Assolutamente, guardi, stavo arrivando esattamente lì, io ho chiesto che quella opportunità che mi sembra tra l'altro nel decreto crescita ci sia, cioè che Cassa Depositi e Prestiti possa essere un interlocutore, è esattamente quello che io sto chiedendo praticamente da quando mi sono insediata, che ho capito immediatamente che... Perché altrimenti lei si trova in condizione mese per mese... Poi definirete le piante organiche perché bisogna farlo e diminuirle, però nel frattempo che fa? Non si paga la gente? Assolutamente questo. Lei pensi che la banca ci aveva proposto di aprire linee di credito di finanziamento personale a ogni lavoratore, che naturalmente non sono state accettate perché i lavoratori ci hanno detto: noi abbiamo lavorato, non finanziamo il nostro appunto lavoro, perché significa che l'onere poi va a loro carico. Seconda domanda da parte di molti nostri ascoltatori: lei non ha tirato fuori l'argomento, glielo chiedo io, poiché negli anni alle nostre spalle abbiamo avuto enormi trasferimenti, cioè centinaia e centinaia di milioni, x volte i 100 milioni di buco attribuiti ad Alessandria, di trasferimenti a importanti città del centro-sud, esatto, che erano in condizioni del tutto analoghe. Il motivo per cui ad Alessandria questo non si fa, molti ascoltatori ci chiedono: ma com'è che il sindaco non ha detto? E come? A Palermo, a Catania, a Roma, eccetera. Vabbè, eccetera. Non solo, l'ho scritto anche al Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica con i quali sono contatti. Risposta: mi è stato detto che diciamo in Sicilia, perché io, ma anche sui giornali locali, insomma, questo è un leitmotiv che uso spesso. Io sono un sindaco del centro-sinistra, ma mi sento di dire che le lobby territoriali del sud, in modo molto trasversale a tutti i livelli di rappresentanza, sono molto più forti di quelle del nord, e che i 450 milioni di euro inviati alla regione Sicilia perché non fallisca, la legge per Roma Capitale, che altro non è che il ripiano di tutti i buchi di Roma di volta in volta, la discussione che sta avvenendo con sollecitazione dal cardinale all'ultimo dei deputati e dei rappresentanti delle categorie a Napoli per una legge straordinaria su Napoli impongono una riflessione. Naturalmente io ho chiesto al Presidente del Consiglio di essere ricevuto, ho mandato una nota molto particolareggiata di tutti gli aspetti di incongruenza normativa, ma anche di richiesta di un tavolo in cui essere controllati, ma una fase che ci permetta di avviare risanamento in modo credibile, esattamente con un'agevolazione di rapporto con Cassa Depositi e Prestiti o comunque con fondi che siano vincolati al risanamento e utilizzati per arrivare esattamente a quel modello riorganizzato che prevederà naturalmente, quando si parla di piani industriali in ogni realtà e quindi credo anche nel pubblico, non si possa prescindere dal fatto che in questi anni le partecipate sono state usate come ammortizzatori sociali o come elementi per politiche clientelari. Di questo io ne sono consapevole e sono pronta anche ad affrontare con la mia maggioranza un'analisi dialettica con i sindacati, con tutte le categorie economiche della città, perché è chiaro che il risanamento passa anche dal fatto di essere credibile e ristrutturare quelle aziende partecipate del comune. Quando parliamo di ristrutturazione parliamo di riorganizzazione funzionale, però questo noi non riusciamo a farlo se non ci sono questi presupposti, ed è per questo che io poi ho riunito i parlamentari per chiedere che almeno riescano a sbloccare i crediti che noi abbiamo nei confronti dello Stato, cioè ci consentano di avere quel respiro, quella boccata d'ossigeno che ci renda operativi sul risanamento, altrimenti noi avremmo realizzato quella formula che l'operazione è riuscita ma il paziente è morto. Ma il paziente è morto, infatti. Esatto, che è il vero rischio da evitare. Io dico a Maria Rita Rossa, al sindaco d'Alessandria, a tutti gli alessandrini che ci aspettano, che ci ascoltano, che l'impegno che prendo con la radio, questa è già la seconda trasmissione che dedichiamo, d'ora in poi in qualunque passaggio che fosse, per così dire, esemplare per capire come si fa a uscire con responsabilità e con tempi stretti da una situazione di questo tipo, torniamo sull'argomento, perché io credo che sia una specie di banco di prova, Alessandre. Vi sottolineo che per il nord non vale quello che vale per il centro-sud, come è evidente, nel nord si è rigorosi, nel centro-sud si chiude gli occhi e i contribuenti pagano. Vi sottolineo che mentre CDP, la Cassa Depositi e Prestiti, che pure nasce nel nostro ordinamento per dare mutui e prestiti agli enti locali, questo era il suo fine primario, ieri abbiamo appreso che è entrata nel capitale di ERA, una grande municipalizzata che non ha bisogno dei soldi pubblici e nel frattempo non dà apertura straordinaria di tesorerie ai comuni che si trovano in questi guai. Vi sottolineo che la legge, come è giusto dal mio punto di vista, che sono rigoroso, prescrive naturalmente ai comuni che fanno la fine di Alessandria di avere blocchi immediati. Blocchi immediati che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è il blocco delle assunzioni, che vengono liquidati i lavoratori a tempo determinato, che naturalmente non ci sono più possibilità di contrarre mutui e che le tariffe, le tasse pagate dai cittadini vanno al massimo, ma nel frattempo lo Stato non gli paga quello che gli deve, perché lo Stato centrale adotta agli altri regole diverse da quelle che riserva a sé, anche nel caso in cui ci sia l'evenienza straordinaria di un comune che deve ritirarsi sulle maniche con un sindaco e giunta nuova. Ecco, allora, uno Stato che ragiona così, secondo me, ha bisogno della nostra pressione dal basso, è per questo che mettiamo il microfono a disposizione del sindaco e del sindaco di tutti i cittadini. Per favore, gli ex amministratori che hanno la responsabilità di questo non si rifacciano vivi con me come la volta scorsa, dicendo questa è una trasmissione di parte, qui c'è una situazione certificata e si dà una mano a chi ha la responsabilità, perché l'hanno scelto i cittadini di Alessandria, di dover adesso parare i guai che gente irresponsabile, cieca e che ha fatto solo i cavoli suoi ad Alessandria ha fatto. Temo che ci sia anche una qualche, devo dire, perfetta somiglianza con chi lo ha fatto a livello nazionale. Quindi un saluto e un ringraziamento a Maria Rita Rossa, sindaco di Alessandria. Ora andiamo in pubblicità e torniamo con un'altra storia di crisi anche 9 in punto. La versione allora, di Oscar. Torniamo in studio. Prima di passare, magari c'è una, mi hanno passato una telefonata che credo che sia relativa ancora ad Alessandria, e quindi la ascoltiamo e poi andiamo a Gioia Tauro. Allora, Francesco che ci chiama da Milano. Prego, Francesco. Sì, buongiorno. Buongiorno. Oscar, buongiorno a tutti gli ascoltatori. No, io volevo fare una riflessione un po' di più ampio respiro. In ordine alla ricetta che lei fornisce circa la dismissione degli asset pubblici per diciamo risistemare quello che è il bilancio dello Stato e poi eventualmente sì, diminuire il tasso di imposte sulle imprese e i cittadini. Ecco, io la ritengo abbastanza scorretta e in un minuto proverò a spiegarle perché. Perché allora il primo punto è che in questa fase di congiuntura economica sicuramente sarebbe una svendita degli asset, soprattutto immobiliari. Non solo, se noi ricordiamo un attimo quello che è accaduto quando ci fu Tremonti come ministro dell'economia, ci fu la cartolarizzazione, non abbiamo un buon esempio dell'operazione, diciamo, di vendita del patrimonio immobiliare, perché quella cartolarizzazione portò a una svalutazione del patrimonio e poi a un affidamento, una cessione dei beni pubblici agli amici degli amici, in genere alle solite consorterie. Altra cosa è che mi sembra un po', se prima non si risistema quello che è il sistema, diciamo la struttura statale, non si tagliano le spese, non si rendono produttive le aziende di Stato, non si risistema appunto la parte delle uscite del bilancio pubblico, andare a vendere il patrimonio significa svalutare tutto quello che è l'economia statale. Mi sembra un po', banalizzando molto, come se una famiglia si venda la seconda casa e poi con i proventi di questa seconda casa continua a spendere e espandere senza mettere mano a quello che è, diciamo, l'economia familiare. Quindi prima si tagliano le spese, prima si rende produttivo quello che è il patrimonio dello Stato e poi in un periodo di magari in cui l'economia funziona meglio e quindi c'è anche una maggiore domanda di beni pubblici, allora si dismette quello che non serve. Allora, grazie Francesco, sì. Chiarissimo, non ho interrotto perché ci mancherebbe, la critica è molto legittima ed è uno dei punti di fondo, sono i tre punti di fondo iniziali dei nostri 10 proposte di fermare il declino che trovate sul sito www.fermareildeclino.it. E proprio ieri e l'altro ieri sono usciti due articolati approfondimenti esattamente dei tre punti trattati anche nell'obiezione di Francesco, cioè il punto del conto patrimoniale pubblico e del conto economico. Francesco tende a confonderli, ma tutta la politica tende a confonderli, e invece noi proponiamo di distinguerli. Il debito pubblico così rilevante è un problema patrimoniale e basta con la strategia ventennale di dire agli italiani che lo si affronta col conto economico, cioè con gli avanzi primari fatti con più tasse ogni volta, nel frattempo alzando ulteriormente le tasse e non diminuendo la spesa. Separiamo i due problemi. Il debito pubblico ha bisogno di una risposta che viene da cessione di attivi patrimoniali pubblici, che grazie al cielo sono molto ingenti, molto più ingenti della media degli altri paesi avanzati, e che fino a questo momento lo Stato non ha mai più voluto dismettere dopo l'esperienza delle privatizzazioni dall'inizio degli anni 90. Se separiamo questo problema e quindi abbiamo le dismissioni pubbliche per abbattere di molte decine di punti di PIL il debito pubblico, il conto economico deve tornare, visto che già in avanzo primario è prossimo all'azzeramento del deficit, a poter andare avanti sulla via dei tagli di spesa, ma retrocedendo ogni singolo euro di taglio di spesa in meno imposte, a lavoro e impresa per la ricrescita, non a copertura di nuova spesa come anche le spending review di Monti purtroppo stanno facendo. E si continua a dire mettiamo un'altra tassa e poi dire per levare questa nuova tassa facciamo nuovi tagli di spesa che sono a copertura, quindi come si vede di nuove spese. Noi proponiamo questa duplice discontinuità fortissima rispetto alla continuità che destra, sinistra, tecnici hanno avuto in questi 20 anni. Quanto alla dismissione, l'obiezione del tipo lo faremo quando vanno bene. No, le dismissioni si fanno quando le cose vanno male. Quando le cose vanno bene, non solo lo Stato italiano, ma tutte le autorità pubbliche di qualunque paese non dismettono il resto di niente. Invece hanno molto senso l'obiezione del tipo. Ci sono stati errori come SCIP 1, SCIP 2, SCIP 3, le cartolarizzazioni di Tremonti, che ricordava Francesco, ma anche molti errori ai tempi delle privatizzazioni degli anni 90. Si sono ceduti i monopoli ai privati, Telecom, Autostrade e così via. Allora, dagli errori si impara però, e noi crediamo di aver imparato e studiato abbastanza da potervi dire, a firmare gli approfondimenti del professor Sandro Brusco che insegna alla Stony Brook negli Stati Uniti, per dire, cioè non siamo proprio degli improvvisati osservatori, per così dire, per dirvi che dopo 20 anni di riflessione esiste il modo per rendere credibile un processo di dismissione, cioè deve essere irreversibile agli occhi del mercato, quindi lo si fa gestire attraverso un'asta internazionale a players privati e non lo si fa con fondi della CDP che è pubblica, se no nessuno ci crede che stiamo dismettendo niente. 1, 2, una volta conferiti i beni, anche quelli strumentalmente occupati dalla pubblica amministrazione al fondo della dismissione, si chiarisce che come prima cosa è la ricognizione a valore di mercato e non a valore di libero come oggi, il compito di chi gestisce il processo. Secondo, c'è bisogno di un tempo ragionevole per vendere, ma quei beni non rientreranno mai più nel perimetro pubblico e quindi sono esclusivamente intesi all'abbattimento del debito. Questo è ciò che il mercato può credere se lo date da gestire in mano a un player di mercato. Le obiezioni del tipo si svaluta, si svende agli amici eccetera eccetera sono fatte per tenere l'attivo pubblico nelle mani del pubblico, come la ragioneria generale dello Stato, lei più della politica, ha voluto in questi decenni, dicendo che quella era la base per continuare a rinnovare il debito pubblico, perché l'idea era che il debito pubblico italiano non era un problema, bastava spremere i cittadini levandogli dalle tasche ogni anno di più. Questa era la bieca linea seguita in questi anni dalla ragioneria generale, e a me dispiace che molti come Francesco, che in perfetta buona fede e hanno ragione ad avere dubbi sul fatto che noi saremmo meglio degli altri se mai ci provassimo a farlo, continuino a dare retta a chi al vertice della pubblica amministrazione gli ha solo messo le mani nelle tasche, compromesso il futuro, il reddito e il patrimonio. Io lo dico a nome dell'Italia che sta peggio, di cui sono convinto che dovrebbe essere la prima beneficiaria di un cambio di marcia radicale su questa storia del debito pubblico, non attraverso nuova patrimoniale ai privati. È lo Stato che ha fatto i debiti, lo Stato ha il suo. Chiunque non capisce che deve essere lui ad abbassare la testa e a cedere, lavora per i vertici della pubblica amministrazione che, come abbiamo visto prima, al comune di Alessandria dicono: i lavoratori del comune e i contribuenti del comune pagano subito. Lo Stato non riconosce neanche i crediti, intanto vantati dal comune nei miei confronti. E lo Stato con CDP, col cavolo che gli dà una mano per la gestione straordinaria per evitare che non si pagano gli stipendi. E lo stesso Stato che vi dice che non può cedere il suo, mentre voi privati dovete cederlo ogni giorno. Uno Stato così vi piace davvero tanto, Francesco? Evidentemente sì, e io rispetto il punto di vista di chi gli piace. A me sembra invece che sia uno Stato che ci scava la fossa, però magari mi sbaglio io. Allora, andiamo a Gioia Tauro. Gioia Tauro, grande porto di transshipment nato dall'illusione di un polo industriale siderurgico pubblico poi non realizzato, l'ennesima grande promessa di una catena nel deserto. Porto di transshipment, lo ricordo a chi non è esperto, significa movimentazione da grandissime navi che portano a bordo migliaia di Teus. I Teus sono unità standard del trasporto navale commerciale, un porto che poi entra in crisi di fronte al fatto che le condizioni economiche di tariffa e di movimentazione di Teus per ora di altri porti del Mediterraneo, nordafricani e spagnoli, diventano molto concorrenziali. Il privato che gestisce lamenta anche che fa parte di questo abbattimento del ritorno dal porto di Gioia Tauro, una condizione di offerta di lavoro gravata da troppo assenteismo. Tutti si tirano sulle maniche. Nasce nel 2011 un grande patto per rilanciare il porto, di cui è parte integrante anche un impegno dei sindacati e dei lavoratori del porto ad abbassare l'assenteismo, cioè a premiare chi ne ha meno di assenteismo, a entrare nel merito a piedi uniti di questa storia. C'era un assenteismo che arrivava appunto superiore al 25%, per capirci, quindi un fenomeno gravissimo. Allora, poi questo patto va in scadenza e i sindacati, o meglio la maggioranza dei sindacati CGIL, CISL e UGL, a fine luglio lo sottoscrivono per altri 2 anni. Si va poi alla consultazione nei primi giorni di agosto tra i lavoratori del porto di Gioia Tauro e, sorpresa, o meglio, l'esito è che vince la posizione del SUL, sindacato autonomo, che dice: no, questa riproposizione del premio, dell'incentivo per abbattere l'astensionismo è sbagliato, e nel voto vincono coloro che la pensano così. L'effetto è che si torna a una cassa integrazione a rotazione invece che tra tutti i lavoratori, invece che anche commisurata ai tassi di assenteismo, perché secondo il precedente accordo finiva in cassa integrazione preferenzialmente chi aveva lavorato nei 3 mesi precedenti per una percentuale di giorni inferiori all'82%. Abbiamo con noi Domenico Laganà della CGIL, che aveva sottoscritto quell'accordo, è il segretario della FILT CGIL di Gioia Tauro. Chiedo a Laganà innanzitutto se quanto ho riportato è corretto. Secondo, come diavolo sia stato possibile che l'accordo che avevate sottoscritto, che a me sembrava responsabile, i lavoratori hanno detto no, hanno delle ragioni loro che voi non avete compreso. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. No, lo spaccato che lei ha assolutamente evidenziato è preciso e perfetto. Il fatto che in piena democrazia abbiamo valutato di poter consentire ai lavoratori di esprimersi ha dato un parere negativo su una forzatura di un sindacato autonomo che per un anno è stato a guardare e che sapeva perfettamente di doversi giocare le proprie carte, non per il bene del porto a mio avviso, ma solo ed esclusivamente per risollevare la testa. È stato tutto qui. Noi paghiamo lo scotto di un valore che non è un valore aggiunto, di essere calabresi. Abbiamo con tanto sacrificio cercato di difendere una delle poche realtà, forse l'unica realtà in Calabria assolutamente produttiva, e puntavamo assolutamente a cercare di trovare la luce in fondo al tunnel con uno sforzo, anche se notevole, di tutti i lavoratori. Quindi l'avevamo riproposto, ma voglio dire, non accettiamo tranquillamente il no. Di fatto questo no però non è che ci pone nelle condizioni migliori, né per i lavoratori né tantomeno per le organizzazioni sindacali, di poter cercare di aggredire ancora di più quello che può essere l'uscita da questa cassa integrazione. La cassa integrazione si continuerà a fare per i requisiti di legge, che non sono così scontati. cioè, i requisiti di legge pongono anche delle limitazioni alla rotazione. L'azienda farà l'azienda e adesso le regole del gioco saranno solo ed esclusivamente dell'azienda. Non è detto che sia tutto più semplice. Che è tutto facile. Più semplice, esatto. Aspetti un secondo, noi abbiamo il minuto di traffico, poi torniamo con lei. 9 in punto, la versione di Oscar. Allora, con This is the End dei Doors torniamo e ridiamo la parola alla Ganà della FIL CGIL di Gioia Tauro. Lei diceva non è più facile, certo, dopo il voto dei lavoratori, visto che l'azienda avrà ancora più voce in capitolo, ha saltato l'accordo per la cassa integrazione. Ma la ragione, lei ha prestato il giusto omaggio ai principi per cui si sentono i lavoratori, con la consultazione diretta i lavoratori decidono, ma l'indomani, andando e conoscendo bene i lavoratori del porto, come mai è prevalsa questa linea? Cioè, i lavoratori perché si sono convinti di non essere più deboli adesso ma più forti? Ma i lavoratori sono stati un po' aggrediti nelle varie assemblee anche per una violenza psicologica, io ritengo un'assoluta violenza psicologica dettata anche da promesse che poi si sono rivelate assolutamente false, su nuovi accordi, su sarà più libero per tutti, sarà più umano per tutti, non saranno negati i diritti. Di fatto però tutto questo sarà ancora da lì a vedere cosa succederà, perché adesso, come la legge recita, l'azienda dovrà assolutamente entro il 15 settembre produrre un piano di riorganizzazione che ci ha già anticipato il 29 di agosto in una riunione che abbiamo fatto, e in questo piano di riorganizzazione ci saranno le varie strategie per poter fare il lavoro dell'azienda, né più né meno. Dire che i lavoratori sono stati abbandonati non dà assolutamente la giusta attenzione, ma d'altronde una buona percentuale oggi probabilmente, o se non oggi quanto prima, insomma, si renderà conto che non è più semplice, ma non tanto per i diritti che sono stati limitati con l'accordo precedente, ma quanto che sostanzialmente l'obiettivo nostro non è tanto limitare o non limitare i diritti, ma quello di uscire al più presto dalla cassa integrazione. Quella era una ricetta, per l'amor di Dio, un'opportunità. Non finisce il mondo del lavoro perché questa opportunità è stata accantonata. Noi continueremo a fare il nostro lavoro, vedremo un attimino quali saranno le esigenze. Abbiamo già detto all'azienda di non usare eccessiva violenza in questo, ecco, in questo piano di riorganizzazione, anche perché i lavoratori hanno dimostrato assolutamente attaccamento al lavoro, hanno dimostrato grossa professionalità, dimostrato anche di sacrificarsi per la propria azienda. Quindi credo che non voglio dire che ci sia stata una lezione morale da parte di tutti, ma assolutamente una coscienza che ha fatto sì di porre la giusta attenzione a un problema che era assolutamente le posso fare una domanda, una domanda che è trasversale, sì. Ovviamente lei non può e non deve rispondere per altre categorie della CGIL eccetera eccetera, però questo è un caso in cui voi vi siete battuti evidentemente di fronte a tutti, alla città, ai lavoratori, ai dipendenti, alla proprietà, a chi gestisce, all'autorità portuale, vi siete battuti avendo in questi anni il tema della produttività e del rilancio della produttività e delle verifiche di produttività come uno dei temi fondamentali per difendere poi che cosa? Per difendere l'azienda, per difendere il porto di fronte al fatto che c'erano concorrenti che possono avere costi molto più bassi del lavoro rispetto a quelli che naturalmente sono quelli italiani. Allora, la domanda è: quando si finisce per perdere andando tra i lavoratori dicendo guardate che la produttività e l'assenteismo è uno, non è la questione fondamentale, ma è uno dei punti di cui tenere in considerazione, e si perde rispetto ad altre categorie che dicono lasciamo la produttività intanto all'azienda perché noi dobbiamo oramai difendere dei diritti che vengono messi sotto i piedi. Non le chiedo giudizi, le dico come ci si sente all'indomani dopo che si è impostato per anni, lei ci ha messo la faccia lì di fronte ai dipendenti, dicendo anche la produttività deve essere un obiettivo che noi difendiamo perché altrimenti poi alla fine il lavoro se ne andrà. Guardi, noi la faccia l'abbiamo messa con orgoglio, cioè noi siamo riusciti a far aumentare del doppio i volumi in quest'anno. Esatto. Siamo riusciti a convincere in modo indiretto, per l'amor di Dio, non siamo noi che contrattiamo con MSC e con TIL, a far acquisire il 33% delle azioni del porto di Gioia Tauro. Sono risultati che, per quanto mi riguarda, mi soddisfano assolutamente. Per rispetto a come stavamo due anni fa, un anno e mezzo fa. Ma assolutamente, c'è stato un incremento che nessuno si aspettava, neanche la stessa azienda probabilmente si aspettava un incremento del genere. Di fatto però non ci ha fatto completare assolutamente il percorso che noi volevamo. Non per ultimo, tutta una serie di discussioni che abbiamo fatto anche con la regione Calabria. Ripeto, noi non abbiamo il valore aggiunto di altre regioni, purtroppo noi in Calabria dobbiamo ragionare e capisco qual è la difficoltà tra le varie categorie della stessa CGIL. Qui in questa regione noi dobbiamo assolutamente fare i conti non solo con la questione del lavoro, come lei ben sa, però voglio dire, questo è stata una difesa a spada tratta, sicuramente con tantissimi sacrifici, non c'è dubbio. Noi stiamo aspettando ancora però che si muova tutto l'entourage, tutte le istituzioni che hanno dichiarato che quest'area è un'area di crisi, ma nulla però è stato fatto per incentivare diciamo gli interventi da parte anche di altri, certo, di altri operatori. Non si è completato assolutamente un piano strategico per la logistica, noi stiamo ancora aspettando. No, questo oggi... sono testimone, perché io seguo con particolare attenzione questo, perché poi c'è un mensile che si occupa di questo e devo dire, avete perfettamente ragione, del resto il quadro che noi tutti i giorni tentiamo di dare informativa è queste 140 grandi crisi italiane, e quindi figuriamoci. Posso chiedere al volo, ci sono pochissimi secondi, ma è già aumentato l'assenteismo secondo voi in queste due settimane? Io non entro in merito, sì, do solo i dati che ci dà l'azienda, perché sì, qui ognuno poi le bugie, sì, le continua, sì, a dire, sì, sui vari quotidiani. Allora, l'azienda ci ha detto che l'assenteismo negli ultimi 15 giorni, cioè dal referendum, è aumentato di 2 punti. Non ho piacere a darvi questi dati, no, certo, devo essere sincero, perché non voglio violentare la mente di nessuno. Ma poi soprattutto non voglio dire che chi ha votato in quel modo è perché vuol fare l'assenteismo, questo sarebbe sbagliato. Però io ringrazio la Ganapa che ci ha consentito di dimostrare che poi ci sono pezzi d'Italia che dal basso dicono tiriamoci sulle maniche. Naturalmente bisogna convincere tutti, questa è la difficile arte della democrazia. Appuntamento a lunedì. Radio 24, la passione si sente.